Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Violento incendio verso le 23 in un appartamento nel pieno centro di Trieste, interamente distrutto dalle fiamme. Nessuno è rimasto ferito o intossicato. Irreperibile il giovane che abitava nell'alloggio. Il rogo potrebbe essere stato appiccato volontariamente. Si giocherà a Udine la partita di qualificazione ai mondiali di calcio 2026. Italia-Israele si disputerà al Friuli il 14 ottobre, ma prima, il 13 agosto, ce ne sarà una ancora più delicata, la sfida di Supercoppa Paris Saint-Germain-Tottenham. A 2 anni dalla grandinata di Mortegliano molti danni sono già stati riparati, ma strutture come il centro civico attendono ancora i fondi necessari. L'evento ha rafforzato la sensibilità verso la protezione civile, protagonista ieri di un campo estivo per i ragazzi. A Trieste, dove è sistemato il Cirque du Soleil, attivisti e associazioni hanno organizzato il Cirque du Silos per ricordare il Silos come luogo d'accoglienza, non solo di marginalità. 3 culture, 3 popoli, 3 confini sempre più invisibili attorno ad un santuario di montagna e il Lussari, dove 4 vescovi, 2 italiani, 1 sloveno, 1 austriaco, hanno compiuto il primo pellegrinaggio estivo. A Villa Manin stasera il concerto della cantante canadese Anaï Morissette, un altro mega evento dopo Marco Mengoni ieri sera a Lignano. È domenica 22 giugno 2025, sono le 8:32 minuti 15 secondi. Buongiorno dalla testata giornalistica regionale, ai microfoni con voi stamattina Antonio Cagliazza. Vediamo com'è la situazione meteorologica, cielo da sereno a poco nuvoloso, ecco le temperature alle 7. A Trieste 23 gradi, a Udine e a Pordenone 21, a Gorizia 20 gradi, Tolmezzo 17, Piancavallo 14,5, Forni di Sopra 14, Tarvisio 13, Sappada 12, Lussari e Zoncolan 12,5 gradi, a Lignano 24,5, a Grado 22,5. Le previsioni: oggi cielo sereno su pianura e costa, poco nuvoloso sulla zona montana, venti deboli a regime di brezza. Un violento incendio nella notte ha distrutto un appartamento nel pieno centro di Trieste, avvenuto attorno alle 23 all'incrocio fra Via Crispi e Via Rossetti. Lunghe lingue di fuoco sono uscite da una finestra di un alloggio al primo piano e per spegnere il rogo sul posto sono arrivate 3 squadre dei vigili del fuoco. Non si registrano feriti o intossicati. Dalle prime informazioni raccolte sul posto dalla polizia, l'alloggio era abitato da un giovane con problemi di tossicodipendenza. Le fiamme potrebbero essere state appiccate volontariamente. Il giovane si è intanto reso irreperibile. A 1 anno esatto di distanza, Udine tornerà ad ospitare allo Stadio Friuli l'incontro Italia-Israele. La data, 14 ottobre, alle 20:45. Ora ufficiale, per la 3ª volta in 1 anno, lo Stadio Friuli di Udine ospiterà un grande evento calcistico internazionale a 2 mesi dalla Supercoppa Europea. È quasi un copia e incolla rispetto all'anno scorso, stessa data, 14 ottobre, stesse squadre, le nazionali d'Italia ed Israele. Allora era Nations League, stavolta sono le qualificazioni mondiali. Per il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, l'assegnazione è frutto di un lavoro condiviso tra Regione e Federazione Udinese Calcio nell'ambito degli stessi buoni rapporti che hanno portato in Friuli la Supercoppa. Per Fedriga sarà ancora una volta un momento di grande festa. Allora la partita fu accompagnata da una manifestazione filo-palestinese in città e da misure di sicurezza corpose in zona stadio, un risultato apprezzato dal Ministero dell'Interno, tanto che è stato lo stesso Viminale a spingere per tornare a Udine, ritenuta l'opzione migliore nella rosa di città proposte dalla FIGC, tra cui Bergamo e Bari. Voci della maggioranza udinese esprimono forte malumore per la scelta. Lo stesso sindaco Alberto Felice De Toni non mostra entusiasmo, ma non se l'è sentita di mettersi di traverso. Stavolta la federazione non gli chiederà il patrocinio, togliendo al comune un motivo di imbarazzo già emerso nella prima occasione. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Il Silos di Trieste, un tempo rifugio per migranti e simbolo di marginalità, oggi ospita gli spettacoli del Cirque du Soleil. Con l'evento Cirque du Silos, attivisti e associazioni hanno riacceso l'attenzione su questo luogo per raccontarne la complessità e anche l'umanità. Il Silos a Trieste era un rifugio, un luogo di attesa, di marginalità, ma anche di feste e di condivisione. Oggi al suo posto c'è un circo, Le Cirque du Soleil, fino al 13 luglio. Per questo, dicono attivisti e associazioni che hanno organizzato l'evento Cirque du Silos, vogliamo tornare a parlare di Silos per ricordare che non è solo un luogo di miseria, ma è stato ed è un luogo di accoglienza. Decine di persone sono state in piazza, insomma, per i dimenticati, contro quella che è stata definita la retorica della riqualificazione dell'area adiacente alla stazione centrale. Dice Giuseppe Grimaldi, antropologo delle migrazioni, che è intervenuto alla manifestazione. Questa è una giornata che rivendica e che mostra quello che è stato il Silos e quello che ancora rappresenta nella città, quale spazio di autonomia e quale spazio di costruzione di socialità diverse. Con tutte le problematiche legate a quello spazio che di certo non sottovalutiamo né vogliamo nascondere. Quello che si vuole nascondere invece, a quanto pare, è l'operazione di pulizia delle memorie, delle tracce, degli attraversamenti che ci sono stati. Silvano Barone, TGR Friuli Venezia Giulia. La Protezione Civile ha organizzato un campo estivo per ragazzi a Mortegliano, un luogo significativo, teatro 2 anni fa di violente grandinate che avevano provocato danni pesanti agli edifici e dove si è evidenziato fin da subito il lavoro di messa in sicurezza dei volontari della Protezione Civile. Quasi 2 anni fa la devastante grandinata di Mortegliano, i segni sono ancora evidenti su alcuni edifici della cittadina, tuttavia la gran parte dei beni privati e pubblici sono stati risistemati ancor meglio di prima, in certi casi anche con i risarcimenti delle assicurazioni e con gli aiuti di Regione e Stato. Altri come il centro civico Paroni, completamente inagibile, attendono una ristrutturazione che potrebbe arrivare a breve grazie a nuovi fondi nazionali. L'assessore ai lavori pubblici Elisa Tammaro. Con i chicchi che sono arrivati sono stati rotti tutti i coppi, tantissimi vetri e quindi l'acqua adesso entra, filtra, con le temperature fredde dell'inverno ghiaccia, spacca. L'esperienza del 2023 ha reso la popolazione locale ancora più sensibile ai temi della protezione civile e in questo contesto che 30 tra bambine e bambini hanno partecipato a un campo estivo organizzato dalla protezione civile stessa, l'unico in regione insieme a quello di Buia. Spegnere i fuochi. Avete imparato questo? Sì. Dove l'avete fatto? Qua dietro. Dietro alla palestra. Mortegliano, Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. I rappresentanti dei Fogolars Furlans hanno partecipato a Gorizia alla 72esima convention annuale dei friulani nel mondo. Le minoranze come veicolo di dialogo e cooperazione. I friulani nel mondo rilanciano il messaggio della capitale europea della cultura verso una dimensione cosmopolita delle tradizioni e allo stesso tempo rivendicano l'orgoglio delle radici come fattore identitario attrattivo in una fase di neoemigrazione e calo demografico. Sentiamo Jan Carbonel Medina del Fogolar Furlan di Avellaneda in Argentina. Sono quadrinipote di emigranti friulani che hanno migrato all'Argentina più di 100 anni fa. Oggi è un orgoglio essere qui. Questo programma di valori identitari è fondamentale per incontrare i giovani con la sua storia, con la sua radice. Presentati i manuali di scrittura in friulano per gli studenti di lingua inglese e spagnola. Il presidente dell'ente Friuli nel mondo, Franco Jacob. Abbiamo anche i ragazzi che partecipano alle iniziative dei corsi studiare in Friuli e dei corsi post-universitari, ma soprattutto vogliamo mantenere vivo il tema dell'identità, della lingua, il messaggio dell'essere friulano, operoso, onesto e rispettoso delle tradizioni, dei luoghi in cui è stato accolto, sia ancora un messaggio attuale. Gorizia, Maurizio Mervar, TGR Friuli Venezia Giulia. Oggi la Chiesa celebra il Corpus Domini, una delle principali ricorrenze liturgiche che afferma la presenza di Gesù Cristo nel pane e nel vino consacrati durante la messa. A Trieste si tiene una messa nella chiesa di Sant'Antonio Taumaturgo alle 19. A seguire una processione si snoderà per le vie del Borgo Teresiano fino a Piazza dell'Unità, dove il vescovo Monsignor Enrico Trevisi terrà l'omelia e impartirà la benedizione eucaristica. I rappresentanti delle diocesi di Udine, Gorizia, Lubiana e Klagenfurt hanno compiuto il primo dei pellegrinaggi estivi sul Lussari, al santuario dei Tre Confini. Le diverse culture non sono un ostacolo nel santuario dei tre popoli, dove ogni giorno sulla cima del Monte Lussari le messe vengono officiate nelle tre lingue, italiano, sloveno e tedesco. Un pellegrinaggio speciale nell'anno del Giubileo che dà il via alla stagione turistica in montagna, quello celebrato dai quattro rappresentanti delle diocesi di Udine, Gorizia, Lubiana e Cork-Klagenfurt. Riccardo Lamba, arcivescovo di Udine. Siamo un unico corpo. Parliamo in diverse lingue, ma siamo l'unico corpo. Chi ascolta per la prima volta la liturgia plurilingue apprezza. È un segno di unione di varie civiltà, per cui sempre positivo. In un mondo segnato da guerre sempre più aspre, un messaggio di pace arriva da Gorizia e Nova Gorizia, capitale europea della cultura. Carlo Maria Redaelli, arcivescovo di Gorizia. Può diventare così nel nostro piccolo, però un simbolo che è possibile superare tante situazioni di difficoltà, di tensione, e si può creare un momento di dialogo e di pace. Tarvisio, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. Siamo agli spettacoli, durata di circa 2 ore per il concerto della cantante canadese Anaï Morissette, di cui in sottofondo state ascoltando You Learn. A celebrazione del trentennio trascorso dal suo primo album internazionale, Jagged Little Pill, sul palco non solo lo stile inconfondibile, ma anche l'evoluzione musicale personale della musicista, che finora ha venduto in tutto il mondo 60 milioni di copie con 10 album. In scaletta i brani più famosi come Mary Jane, a Villa Manin stasera alle 21. E anche oggi Pordenone sarà un palcoscenico grazie a Piano City, la manifestazione che ospita concerti per pianoforte nelle strade della città. Pordenone è un palcoscenico a cielo aperto, piazze, strade e corti, ma anche i palazzi storici, i luoghi dove le diverse sonorità musicali, dalla classica al jazz ai ritmi sudamericani, creano la magia di Piano City. Musicisti affermati e giovani talenti scelti attraverso le loro candidature fanno avvicinare persone che solitamente non riempiono le sale concertistiche. E ancora allievi delle scuole del territorio, dagli 8 ai 14 anni, una settantina, nell'ottica del comitato organizzatore di alimentare la progettualità di Pordenone, capitale della cultura, nel 2027. Luigi Rosso, il presidente comitato Piano City Pordenone. Il nostro particolare progetto è quello di utilizzare una sala che abbiamo da pochi mesi in gestione, dove abbiamo intenzione di organizzare anche una rassegna pianistica. L'idea della rassegna, con appuntamenti fissi ciascun mese o ciascun bimestre, questo dobbiamo ancora declinarlo come ipotesi, è uno dei contributi, uno degli obiettivi che ci prefiggiamo per la candidatura. Pordenone, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. Una notizia di sport, 13ª edizione per la 10 miglia Aviano Piancavallo, gara internazionale di corsa in montagna, disputata non solo su strade ma anche su mulattiere e sentieri. La competizione è valida come campionato triveneto assoluto e master di corsa in montagna. Comincia alle 9.15 dal centro sportivo Visinai di Aviano. Rassegna stampa sui giornali, ovviamente non c'è l'attacco americano di stanotte ai 3 siti nucleari iraniani, anche i siti internet vengono aggiornati in queste ore e dunque vediamo la prima pagina del Piccolo di Trieste. Porto, il faro della procura, Torbianelli sentito dal magistrato dopo la revoca dalla carica di segretario affidatagli pochi giorni prima. Pochissimi al momento i particolari su questo fascicolo, a rigor di logica si vuole far luce sulle dinamiche che hanno portato alla rimozione del segretario generale da parte del commissario Gurrieri, si legge nel richiamo in prima. Al centro della prima pagina una foto dell'impianto di Acegas APS Amga a Servola, il titolo: così in 6 ore il depuratore restituisce acqua pulita. Le prime 2 pagine di primo piano sui fondi pubblici alle iniziative culturali e sportive private, oltre 5 milioni a 545 beneficiari. Nell'apertura delle pagine sulla città, la situazione degli stabilimenti balneari da Barcola a Muggia. Più avanti un articolo di Laura Tonero sul progetto di riproduzione del famoso Batiscafo Trieste, che sarà prima esposto in Piazza dell'Unità e poi nel Museo De Enriquez. Messaggero Veneto di Udine in prima calcio. La partita bis divide Italia-Israele a Udine. Fedriga, risultato di un lavoro condiviso. De Toni avevamo già dato. A centropagina la foto di un sanitario con le insegne dell'UNICEF. Il titolo: medico friulano a Gaza racconta, i bimbi muoiono senza abbracci. La testimonianza di Loris De Filippi dopo 9 mesi nella striscia. Sul Messaggero in primo piano c'è Italia-Israele, atto secondo, Bari la prima ipotesi, poi la soluzione Udine, così è nata la trattativa. Più avanti una pagina di foto e testo sull'esercitazione che la Iulia sta compiendo in Piemonte assieme alla Brigata Taurinense. Il Gazzettino del Friuli apre sulla sanità, pronto soccorso, l'ora dei privati, il direttore caporale dice che sono stati individuati gli offerenti per la maxi gara da quasi 8 milioni di euro. Anche qui a centropagina la partita Italia-Israele di ottobre, poi un'inchiesta sui prezzi dei carburanti in queste settimane di guerra in Medio Oriente, l'esito, prezzi fermi al distributore. Sanità, Gorizia si ribella, è il titolo della prima dell'edizione isontina del Piccolo, documento bipartisan in Consiglio Comunale contro i tagli. Chiesto l'intervento di Fedriga in aula e all'interno del giornale il titolo è: basta tagli alla sanità goriziana, la politica alza la voce con la regione, gruppi consiliari compatti. Sottoscritto un documento per chiedere l'intervento di Fedriga in aula. La pagina successiva: è stato ritrovato nelle vicinanze di un negozio il cappello della statua di Michelstetter in via Rastello. Qualche mese fa il copricapo era stato divelto dalla mano del filosofo e poeta, ora è stato ritrovato o fatto ritrovare e sarà riposizionato. Pagina successiva: il park bipiano di via Manzoni sarà collaudato entro un mese. L'apertura su Monfalcone, i costi della campagna elettorale, sedi in affitto e manifesti spesi quasi 72.000 euro. Moretti ha sborsato di tasca propria 12.600 euro contro i 1.200 di Fasan. Conate zero. La Lega supera tutti con 11.220 euro. Edizione di Pordenone del Messaggero: al via un'estate che sorprende, oltre 300 eventi per tutte le età, la kermesse si è aperta con il concerto di Carima. Sull'auditorium Concordia il sindaco chiede la gestione diretta per aprirlo a tutti. E poi il nuovo comando della Polizia Municipale, bando di mobilità per 3 agenti, ha approvato il progetto esecutivo di un altro lotto della sede, organico da integrare. Quindi un'intervista ad un commerciante stabilitosi da anni a Pordenone ma con un passato da esule, dall'Iran, Taher Jafarizad, che dice: dissi addio all'Iran per la democrazia, qualcosa ora cambierà. Gazzettino, edizione di Pordenone, anche qui il giornale punta sulla sanità, l'estate allunga le liste d'attesa. Dopo un lungo periodo in cui le cose sembravano andar meglio, ora i tempi per visite ed esami diagnostici riprendono quota. Una pagina è dedicata all'iniziativa del comune che martedì vedrà sindaco e giunta al completo montare in bus e venire a Trieste per presentare i dossier di tutti i progetti per il futuro della città, presentarli alla regione. Alcuni appuntamenti musicali prima di chiudere. Lo scrittore musicista Marco Anzovino, protagonista di Futura, incontro in musica, omaggio al cantautore bolognese Lucio Dalla, a Moraro, al Giardino della Casa Canonica alle 21, l'ingresso è libero. Altro grande nome della musica contemporanea, quello del compositore statunitense Terry Riley, tra i maggiori rappresentanti della musica minimalista, di cui la Topolowska Minimalna Orchestra eseguirà la prima opera, Romance di Sonzo, nella corte dell'Osteria Leon d'Oro alle 19. Apertura della 12ª edizione del Festival Victor Ullmann, dedicato alla musica degenerata concentrazionaria e dell'esilio, in cui saranno eseguite composizioni di Gustav Mahler e Gualberto Fano dall'orchestra Abima e dalla Civirca Orchestra di Fiati Giuseppe Verdi, diretta dirette dal maestro Davide Casali a Trieste nella sinagoga alle 18. In limine il duo formato dal soprano Selena Colombera e dalla pianista Ilaria Torresan a Sacile a Palazzo Ragazzoni alle 18 e poi il festival itinerante Palchi nei Parchi con un mix di musica etno gypsy, swing e sonorità dall'est Europa con Radio Zastava a Palmanova al Baluardo Donato alle 18:30. Sono le 8:50 minuti e 30 secondi, concludiamo questa edizione che ha avuto l'assistenza tecnica di Walter Vidonis e la collaborazione in redazione di Paolo Nuzzo. L'informazione regionale torna col giornale radio oggi in onda alle 12:15. Adesso va in onda Vita nei Campi, grazie della cortese attenzione da Antonio Cajazza. Buona domenica e a risentirci. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.